Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Jules Légime di Henri-Pierre Rocher, edizione Gallimard, 1953, traduzione di Ena Marchi. Fu una festa al ritorno quando a tavola raccontarono le loro avventure e tirarono fuori una buffa pipa per Jules e tutta una gamma di conchiglie rosa per le bambine e nere per Mathilde. Una mattina di sole, Jim uscì molto presto a passeggiare in giardino. Su un palo di legno putrido scorse una minuscola macchia verdastra che gli sembrò cambiasse forma. Si avvicinò a guardarla. Era come un grumo, grande come un pallettone di piombo, che alternativamente si allargava e si restringeva con una sincronia perfetta, come uno stormo di pernici che ora si abbassa, ora salza in volo. Ragni, afidi. Un piccolo uccello becchettava coscienziosamente un palo vicino. Mangiava forse palline come quella? Jim guardò di nuovo. La pallina si allargò fino a scomparire fra le macchie di muffa. Chi dava il segnale? Jim fu turbato e la pallina rimase per lui un'immagine della loro casa, interamente retta dall'istinto di Kate. Le bambine erano sedute sull'erba assieme a Jim. «Senti, Jim», disse Martin, «che fa uno quando è morto?» «Vuole dire», spiegò Lisbeth, «che fanno le anime». «Escono dai corpi, come la libellula è uscita l'altro giorno dalla sua larva», disse Jim. «Sì», disse Martin, «si asciugano le ali». «Si uniscono ad altre anime», continuò Jim, «e via, migrano rapide come anguille, ma verso la luna». «E che ci fanno?» disse Lisbeth. «Riflettono, e un bel giorno filano verso i pianeti di fuoco, di ghiaccio e altri». «Mi piace di più quando cambiano animale», disse Martin. «Questo va bene sulla Terra». Poi si tuffano fra miriadi di stelle su per la Via Lattea dove giocano a nascondino col buon Dio. «E lo trovano?» chiese Martin. «Non è detto», disse Jim. «L'essenziale è giocare». «Ah sì», disse Martin. «No», disse Lisbeth. «E la mamma?» chiese Martin. «La mamma vi riacchiappa sempre», disse Jim. L'indomani Kate se ne venne entusiasta con in mano un libro appena uscito. «Finalmente», disse, «ecco un uomo che dice ad alta voce quel che io ho sempre pensato. Il cielo che vediamo è una sfera vuota, nemmeno tanto grande. Noi camminiamo in piedi, con la testa verso il centro della sfera. L'attrazione agisce verso l'esterno, sotto i nostri piedi, verso la crosta solida in cui questa bolla vuota è incassata». «Che spessore ha questa crosta?» disse Jim. «E che cosa c'è al di là?» «Va un po' a vedere, Jim», disse Kate. «Che cosa c'è al di là?» «Non è una domanda da farsi tra gentlemen», risero tutti. Il tempo passava. La felicità si racconta male, si lugora anche, e non ce ne accorgiamo. Fu un avvenimento per tutti quando Jim poté regalare a Kate una piccola automobile con l'abitacolo tappezzato di panno scozzese blu e marrone. Kate imparò presto a guidare. La macchina aveva solo 3 posti, ma quando partiva per il picnic, Kate ci stipava dentro tutti quanti i suoi. Portava Jim con sé la mattina a Parigi e lo riportava a casa la sera, piuttosto che prendere il tram poco frequente e troppo affollato. A volte tutta la famiglia, Mathilde compresa, si metteva a lavare l'auto. L'amavano come un cane fedele e inventavano leggende su di lei. Jim raccontò alle bambine una storia in cui la piccola auto salvava la vita a Kate dopo averla seguita tutta sola per la strada. Jim fece un viaggio in Grecia dove sentì la mancanza di Jules. Non andò a rivedere il sorriso, a che scopo? Aveva l'originale. Al ritorno chiese a Kate di raggiungerlo sulla riviera. Lei arrivò in 2 giorni, una marcia forzata per la macchinetta, e fecero insieme, con tutto il loro comodo, un mezzo giro di Francia. Jim guidava ora, e fu tra le sue mani che la macchina rese l'anima. Kate ha ragione, si schierò dalla sua parte contro Jim. Ci volle un bel po' per farla riparare, e nel frattempo fecero un'escursione a piedi nei Pirenei. In una località termale quasi vuota in quella stagione, Kate provò la cura per curiosità. Jim andò a raggiungerla in una sala piena di vapore, dove ciò nonostante si sentiva una corrente d'aria fredda. Jim vide che mancava un vetro alla finestra. «Tutto bene», disse Kate, che tremava dal freddo. «All'inizio credevo che fosse fatto apposta, e poi io non ho mai raffreddori. Però nel mio paese l'infermiera che mi ha lasciata qui per un quarto d'ora verrebbe punita, perché una malata vera ci sarebbe rimasta». Aspettando che l'auto fosse pronta, leggevano un anonimo romanzo a puntate nella raccolta di un vecchio giornale rurale e vi colsero delle citazioni. ripartirono. Carcassonne, così finta, li rattristò, ma scoprirono delle piccole città fortificate pure e belle. Ci furono delle ombre. Jim trovava Kate a volte ruvida con certe persone. Diceva: «Non bisogna ferire nessuno». Kate ci vide una possibile allusione a Gilbert. «E invece sì», disse. «Qualunque cosa uno voglia fare in questo mondo deve, come un chirurgo, prevedere e operare in tempo». Tornarono a Parigi. Jules ebbe degli echi dei loro attriti. Raccontò loro una storia indù. Due amanti provavano i tormenti dell'amore e della gelosia. Conobbero insieme la più grande felicità e la sciuparono. Molte volte si separarono e si ritrovarono più innamorati di prima, ma ognuno fece soffrire l'altro. Si lasciarono per sempre. Qualche anno dopo lui, col cuore spezzato, volle rivederla prima di morire. La cercò, viaggiò, pensando che dovunque lei fosse la sua bellezza l'avrebbe resa famosa. La ritrovò, vedette di una compagnia di danzatrici che conducevano un'esistenza frivola. Le andò incontro, la guardò e non trovava niente da dirle, e le lacrime gli scendevano dagli occhi. Seguì la compagnia e contemplava l'amica che ballava e sorrideva per gli altri. Non c'era rimprovero in lui e non desiderava da lei che il permesso di guardarla. «Finalmente mi ami davvero», gli disse lei. Commentarono insieme questa storia. Kate era d'accordo. Jim pensò a Manon e a Des Grieux. Jules disse a Kate: «La tua massima è questa. In una coppia bisogna che almeno uno dei due sia fedele. L'altro». Disse pure: «Se si ama qualcuno, lo si ama così com'è. Non si desidera influenzarlo, perché se ci si riuscisse non sarebbe più lui. Meglio rinunciare all'essere che si ama che cercare di modificarlo con la pietà o con la tirannia». Jim avrebbe voluto morire di Kate. Sopravvivere era un'offesa. I ragni maschi lo sanno, e anche le loro femmine. E quando c'è stata un'offesa, le altre offese seguono a catena. Paul. Dopo un lungo periodo di sereno, viene un periodo di temporali, non si sa perché. Si ha ancora negli occhi il bel tempo, eppure il mese è perduto, la stagione è perduta, l'anno forse è perduto. Giornale rurale. Kate era seduta dietro a Jim, che stava al volante della loro macchina. Kate fece ad un tratto un accenno a Gilbert. Jim non rispose. Jim parlò e a sua volta Kate non rispose. Attraversavano lentamente il Bois de Boulogne. Jim pensò che Kate fosse stanca e avesse bisogno di pensare. Rispettò il suo silenzio e cercò di fare in modo che la passeggiata le fosse gradevole. Poteva intravederla nello specchietto che aveva davanti. Lei si chinò e prese il grosso bastone da passeggio di Jim. Lui sentì una minaccia addensarsi alle sue spalle. Kate mosse le mani. Lui previde il colpo, che arrivò con tutta la forza che Kate riuscì a dargli nello spazio ridotto della macchina, sull'orecchio di Jim, che abbassò la testa. Gli sembrò di sentir scorrere il sangue, ma le sue dita restarono bianche. Stordito, si impadronì del bastone, che lei gli lasciò prendere. «Oh, Kate!» disse lui. Lei aveva trovato insultante il suo silenzio e aveva deciso di mettervi fine. «Ah!» gli disse lei un giorno. «Ma quando smetterai di darmi delle briciole di te stesso e mi darai te stesso tutto intero?» «Ah!» disse Jim. «Ma quando permetterai al nostro amore di seguire il suo corso tranquillo, invece di tagliarlo netto come fa il fornaio con la pasta?» Un giovane fece la sua comparsa nella vita di Kate come un grosso insetto mai visto caduto su un balcone. Lei lo raccontò a Julie e a Jim. L'aveva incontrato un giorno che era andata a far spese con Mathilde. Lui le aveva seguite per quasi un'ora, cortese, entrando dietro di loro nei negozi e guardando tranquillo Kate a ogni occasione, e anche Mathilde. La seconda volta Kate era sola. Le si era presentato con una disinvoltura rispettosa, manifestando il desiderio di parlarle. La sua aria seria aveva incuriosito Kate. Accettò di prendere il tè con lui in una pasticceria. Lui era alto, corretto, distinto e amava con passione il suo mestiere di architetto. Trovava che il mondo fosse inutilmente complicato e che gli uomini impiegassero male il loro tempo. Avrebbe voluto più ordine, più chiarezza e valori nuovi. Pensava che il contegno, la decisione, il modo di vestire di Kate fossero affini alle sue aspirazioni. Jules e Jim furono del parere che avesse ragione. Il sorriso arcaico di Kate conteneva un giudizio sul presente. Kate lo rivide e raccontò ancora. Aveva una giovane moglie, alta e snella come lui, ma che non condivideva la sua ansia riformatrice. Erano naturisti e fanatici di nuoto. Non avevano figli. Jules e Jim, sulla base di tutto ciò, lo trovavano simpatico, pur prevedendo che Paul, si chiamava così, sarebbe stato fra le mani di Kate un utile strumento di manovra. Kate aveva accumulato motivi di scontento. Una valanga si preparava. Il tempo di Albert e di Harold poteva tornare con qualche variante. Kate risvegliò lentamente l'inquietudine di Jim. Paul trovava che la linea delle gambe di Kate fosse simbolica. Le aveva forse toccate? Jim desiderò conoscere Paul. La cosa era apparentemente reciproca. L'incontro ebbe luogo in un caffè. Kate fu a suo agio, i due uomini quasi. Paul era proprio come l'aveva descritto Kate. Non faceva niente per attirare l'attenzione, ma sembrava perfettamente capace di trarre ispirazione da Kate in un modo che non sarebbe piaciuto né a sua moglie né a Jim, e di far questo impassibile sotto i loro occhi. Jim era deciso a lasciare che succedesse quel che doveva succedere. Faceva col cuore e con le mani come un piccolo bordo attorno a Kate perché lei non scivolasse fuori sbadatamente, ma muraglie non ne avrebbe costruite. Jules pensava ci poteva capitare di molto peggio. Jim si ricordò di una vecchia frase che Jules diceva a Kate: «Ogni estate ti prendi come amante un altro dei miei amici». Questa volta lei aveva scoperto Paul da sola. Era colpa di Jules e di Jim. Non erano tutto quello di cui lei aveva bisogno. Una sera Kate e Jim si vestirono con cura, presero la piccola auto e andarono a cena fuori. Mangiarono per una volta cibi piccanti e bevvero del vino. Andarono poi a raggiungere Paul e sua moglie, in un velodromo, per vedere un famoso pugile negro. Il suo avversario era un piccolo inglese tozzo e caparbio. Il negro, nonostante la sua straordinaria bravura, lo batté soltanto ai punti, senza metterlo al tappeto. Il pubblico fu deluso. Al caffè la moglie di Paul si rivelò gradevole, come aveva detto Kate, un tantino conservatrice. Kate tenne banco. Paul fu simpatico e riservato. Forse Jim, sul chi vive, non ebbe per Kate tutte le attenzioni che lei avrebbe desiderato. A Kate piaceva avere un cavalier servente premuroso. Tornarono a casa alla massima velocità consentita dalla loro macchinetta e, come ogni sera, fecero il bagno insieme. Che cosa accadde allora? Di che cosa furono puniti? Del cibo eccitante che avevano mangiato, della loro partecipazione animale alla box. Jim prese fra le braccia Kate nuda per rovesciarla dolcemente, come faceva spesso, e baciarla. Kate fece resistenza. Forse Jim la forzò, troppo sicuro del suo consenso. Innervosita da quel che di imponderabile c'era stato nella loro serata a quattro, Kate si sentì brutalizzata e respinse violentemente Jim. Lui vide davanti a sé il volto di lei spaventoso di collera. Kate afferrò un ferro da stiro per tirarglielo addosso. Potevano ferirsi davvero in quella piccola stanza da bagno. Bisognava fare presto. Jim le assestò con la punta delle mani una serie di colpi rapidi intorno al viso per stordirla senza farle troppo male. Kate cadde all'indietro nella loro camera della felicità. Jim, trascinato dallo slancio, la scavalcò con un salto e si accasciò sul letto portandosi una mano al cuore. Kate, preoccupata da quel gesto, corse da lui e lo prese fra le sue braccia. Tacquero insieme, palpitanti, e il loro respiro si calmò lentamente. Si addormentarono. Kate restò a letto per tutto il giorno seguente e Jim con lei. Sul viso di Kate rimase appena qualche segno. Alle bambine raccontò di essere caduta. Mathilde guardò Jim con sospetto. Ancora una volta venivano risucchiati dai vortici del loro amore, ma quell'amore portava piantate sulla nuca due banderiglie, Gilbert e Paul. Jim non aveva mai smesso di vedere Gilbert e Kate vedeva Paul. Jim aveva sempre lo stesso credo: Gilbert equivale a Jules, non parliamone più e cerchiamo di essere felici. E Kate ne aveva uno nuovo: Gilbert equivale a Paul. Che cosa era per lei Paul? Jim se lo chiedeva intensamente, ma senza sperare di saperlo mai. Kate, dopo la volta in cui Jim aveva applicato la legge del taglione, non gli confessava più niente e restava capace di tutto. Nell'arte di fingere gli era talmente superiore che lui non le faceva domande. Kate trovava che lui non si preoccupasse abbastanza di Paul. Se il problema Paul lasciava Jim freddo, allora Kate era libera per quel che riguardava Paul. Bisognava dunque che lei dosasse il dubbio con la massima accortezza. Jim pensava: abbiamo la felicità in questa casa. Se Kate non se ne accorge, tanto peggio per noi. Se lei ha continuamente bisogno di guerra, io non ne posso più. Una notte la mano di Jim incontrò fra il materasso e il legno del letto, dietro la testa di Kate, un oggetto freddo. Era la rivoltella che Jim teneva in macchina. Non disse niente e la nascose. Jules al posto suo non si sarebbe difeso. Per questo Kate non aveva mai voglia di colpirlo. Jules era la pace che Kate disdegnava. Kate ebbe voglia di avere un appartamento a Parigi. Diventava una necessità per gli studi delle figlie e per il suo lavoro. Lo trovò. Jim ebbe il presentimento che lì sarebbero stati sempre meno felici. Meditò perfino di andarsene in America, ma si lasciò trascinare dall'attività e dalla convinzione di Kate. Fecero i loro addii alla Camera della Felicità, che meritava meno il suo nome dopo l'apparizione di Paul. Per sistemare il loro nuovo alloggio vendettero la casa dell'isola. L'amavano tutti e nessuno di loro, tranne Kate, l'aveva vista. Era lontana. E quando avrebbero avuto la possibilità di viverci? Paul fu l'arredatore severo e fantasioso del nuovo appartamento. In ogni stanza le quattro pareti erano di quattro colori diversi, bene accostati. Scricchiolì. Quel paio di forbici, quel coltellino, quegli occhiali che un bel giorno non trovate più, sentono la vostra voce. Vorrebbero rispondere «Sono qui» e non possono farlo. Giornale rurale. Vissero là per più di 2 anni. Jules accettò un lavoro nel suo paese, fu con loro solo saltuariamente, lui, il protettore. Kate e Jim non liquidavano più i loro conflitti in scontri eroici e immediati. Si accumulavano degli arretrati. I loro punti di vista su Gilbert erano inconciliabili. Kate abitava a 3 minuti da casa di Jim, a 5 da casa di Gilbert. Le ore che Jim passava da Gilbert diventavano più evidenti. Kate sentì quella vicinanza come una spina. Ci fu tra le due donne una guerra sorda. Kate portò Jim sulla Manica a vedere una casa per l'estate. Viaggiarono tutto il giorno e arrivarono che era notte fonda. Pioveva, ebbero un guasto ai fari. Tentarono di far entrare l'auto a marcia indietro nel piccolo granaio garage. Non ci riuscirono in alcun modo. Fecero luce con i fiammiferi, spinsero. Tutto inutile. Si accanivano come quando cercavano insieme la soluzione a un problema di scacchi. Finirono per credere che una forza strana, un genio maligno, si opponesse a loro. Si misero a 4 zampe per cercare l'ostacolo invisibile, mattone o pietra che fosse. Non trovarono niente. Irritati, depressi, andarono a letto digiuni parlando dell'avvenimento, raccontandosi storie analoghe della loro infanzia che finivano sempre in modo misterioso. Si sentivano perseguitati, parlavano di presagi. Si svegliarono tardi, corsero all'auto. Una trave del tetto a metà crollata sbarrava in alto un angolo dell'apertura. Non avevano tastato da quella parte. Jules, le bambine e Mathilde li raggiunsero e la bella vita incominciò. La prima mattina, fra gli altri sport, Jim fece con Mathilde una serie di 300 colpi al volano al di sopra della siepe del giardino, senza sbagliarne uno. A pranzo Kate ricevette un telegramma. Doveva rientrare a Parigi per 24 ore. «Parto», disse a Jim, il che voleva dire in pratica «partiamo». «Ah», disse Jim, che tutto indolenzito stava andandosene a dormire. «È proprio necessario che io venga con te?» «Ai», pensò un attimo dopo rendendosi conto dell'enormità che aveva detto. «Come vuoi», disse Kate. «Porto con me Jules e Mathilde, se ne hanno voglia». Loro erano contenti di andare in macchina con Kate, cosa che accadeva di rado. Jim seppe tutta la gravità della sua colpa. Rimase 2 giorni solo con Lisbeth e Martin. Le portava a prendere l'aperitivo, cioè uno sciroppo d'orzata, nel piccolo caffè all'aperto, in tutto 2 tavolini tondi di fronte al grande stagno. Là le 2 bambine osservavano le abitudini delle anatre, si indignavano della brutalità dei galli e si scambiavano delle osservazioni nelle quali Jim ritrovava di volta in volta lo spirito di Jules o quello di Kate. Si divertiva, ma non era tranquillo. Gli altri 3 tornarono contenti del loro viaggio e formando un blocco sul quale Kate insistette. Poco dopo chiese a Jim se aveva intenzione di andare in campagna con Gilberti in autunno come ogni anno. Quando Jim le ebbe risposto di sì, lo cacciò via proprio all'inizio delle loro vacanze al mare. Il resto dell'alveare, che non era al corrente, sentì confusamente che Jim non era d'accordo con la regina. Era dunque ovvio che partisse. Questa per Jim fu una vera frattura. Gilbert sapeva della presenza di Kate. Aveva una volta acconsentito subito a che Jim sposasse Kate per avere dei figli. Questo non era accaduto indipendentemente da lei e lei aveva ricominciato a sperare. Gilbert era infelice. Anche Jim lo era. Non poteva abbandonare Gilbert, sarebbe diventato indegno ai suoi stessi occhi. L'aveva detto a Kate fin dall'inizio e questo non toglieva nulla alla parte ardente di Kate. Tutta la sua buona volontà, la sua onestà, così credeva lui, per non dare all'una quel che apparteneva all'altro, si vanificavano davanti al dolore di Gilbert e alla collera di Kate. Non aveva perduto la fede in quella sua visione, ma non credeva più che si sarebbe realizzata su questa terra. Il suo amore per Kate aveva attraversato la sua vita come una cometa abbagliante. Adesso lo vedeva certe volte come un aquilone impigliato nei fili della luce. «Tutto si sistemerà», diceva ancora. Sua madre, che conosceva un po' sia Gilbert che Kate, gli diceva «Niente si sistema e tutto si paga». Passava più spesso la serata e la notte a casa di sua madre, nel suo letto di ragazzo, da quando lui e Kate decidevano di comune accordo dei periodi di separazione, e là era in un porto franco, fra Kate e Gilbert. Jim stimava sua madre. Da piccolo gli aveva insegnato a non insistere mai. Il suo sì era sì, il suo no era no. E a Jim facevano pena quei suoi amichetti che perdevano tanto tempo in geremiadi per far cambiare idea ai genitori. Passata l'adolescenza, la madre non ebbe più influenza su di lui, se non in negativo a causa del suo apriorismo. Jim era uno sperimentatore. Non aveva mai voluto sposare nessuna delle ragazze che lei sceglieva per lui e lei non aveva mai approvato quelle che sarebbero piaciute a Jim. Quel suo modo tollerante di lasciargli costantemente aperta la porta di casa era stata la causa del celibato di Jim. I loro pasti erano pronti su dei vassoi e loro mangiavano separatamente a qualunque ora quando ne avevano voglia. Lavoravano ognuno nelle sue stanze e si scambiavano brevi e frequenti visite. Kate dava con coraggio e semplicità dei ricevimenti nel suo piccolo appartamento, che non era già più il loro, ad artisti francesi e del suo paese. Jim vi si sentiva superfluo e vi partecipava sempre di meno. Riusciva ad ammirare Kate senza riserve soltanto quando era solo con lei. In società diventava per lui relativa. A volte, durante il sonno che ancora li univa, Jim sentiva il respiro di Kate farsi sibilante, prendere un ritmo lento, come un mantice che si gonfi e si sgonfi. Questo lo preoccupava e gli faceva pena, poiché sapeva che Kate era sveglia, in preda al turbine dei suoi pensieri, e che la conclusione sarebbe stata una lunga discussione sterile, che sarebbe durata fino alle prime ore del mattino, forse fino a uno scoppio di violenza di Kate che avrebbe cercato di colpirlo. Kate si era comprata una piccola rivoltella che nascondeva in vari posti e non dipendeva più da Jim per questo. Una mattina, all'alba, dopo una discussione a proposito di Gilbert, a voce soffocata per non svegliare le bambine, Kate balzò fuori dal letto, corse alla finestra aperta e scavalcò il piccolo davanzale. Jim la vide nuda, di profilo, superba, con gli occhi che fissavano il vuoto dei quattro piani e il cortiletto in basso. Ebbe la folle speranza che si buttasse giù. Lui si sarebbe certamente buttato dopo di lei. Kate, calmata dall'aria fredda, tornò a letto. La primavera segnò una ripresa. Per circa un mese ritrovarono il loro dolce blocco. Ebbero perfino la speranza di un bambino. Poiché Kate e Jules erano di nuovo sposati, avrebbe potuto portare solo il nome di Jules. «Che importa?» pensava Jim. Queste sono le leggi esterne e Jules avrebbe ancora consentito. Ma Kate, che aveva avuto un'educazione borghese, non lo si sarebbe detto sempre, non riusciva a risolversi. Jim andò a fare un viaggio nel sud della Francia con un compatriota di Jack. Pensò molto al bambino e al ritratto che Kate aveva dipinto, la testina bionda arruffata con uno sguardo serio. Ancora una volta tremava d'amore per Kate e per il piccino, la cui presenza avrebbe mandato tutto all'aria e tutto avrebbe risolto. Ma quando tornò, la speranza di avere un bambino era sparita. «Quando tutto andrà bene», disse Kate, «ne avremo uno proprio nostro». Ma non avevano più una fede totale. L'amore e l'indifferenza si alternavano in loro. Era quest'ultima a guadagnare terreno, ma l'amore, quando c'era, travolgeva ancora tutto. Kate aveva detto «si ama pienamente per un attimo solo». Quell'attimo ritornava sempre. «L'amore è una sanzione che gli uomini applicano a se stessi», aveva detto Jules. Valentina Carnelutti ha letto Jules et Jim di Henri-Pierre Rocher, edizione Gallimard 1953, traduzione di Ena Marchi, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio, regia di Luigi Iavarone. Per riascoltare il programma radio3.rai.it, per scaricarlo raiplayradio.it.